Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Lucie, Suzine, je suis enchantée. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Inizia anche oggi la consueta rubrica di cabaret. Quella di oggi è una rubrica monografica. Il tema della puntata odierna è dedicato alla libertà. I brani che vi farò ascoltare sono più o meno di diversi autori, ma tutti sullo stesso argomento. Cominciamo subito da un vecchio pezzo di Gabriel e Maria Monti, intitolato, ve l'ho già fatto sentire altre volte, La libertà di ridere, e tratto da un vecchio disco di quando ancora Gaber era quello del Trani a Gogò e cantava assieme a Maria Monti, accompagnandosi con la chitarra, a Pebba Lere Milanesi. Chiedono, gli uomini sperano, i partiti promettono e i preti pregano. Lei che serio se ne sta, lei forse non lo sa che c'è la libertà di ridere di tutto ciò che vuoi, la libertà di ridere anche di quello che non hai, la libertà di ridere, sorridi più che puoi, la libertà di ridere in mezzo a tutti questi guai. Bambini crescono, gli uomini muoiono, i partiti cambiano, i preti pregano. Lei che triste se ne sta, lei forse non lo sa che c'è la libertà di ridere di tutto ciò che vuoi, la libertà di ridere anche di quello che non hai, la libertà di ridere, sorridi più che puoi, non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai, la libertà di ridere, la libertà di ridere, la libertà di ridere, la libertà di ridere. Da Gaber a Iannacci il passo è breve, dal LP quelli che secondo me è uno dei suoi più riusciti. Vi faccio ascoltare questa che è una canzone abbastanza famosa, si chiama Il Bonzo. Viva, viva la galera che ti fa bel rozzo e nero, viva, viva la galera, ti dà il pane verso sera, viva, viva la galera, ti difende la frontiera, Viva, viva la galera, non ti porta via la pera, verso sera, verso sera, sull'aria di summertime. M'han detto che un bonzo, chi è? Un prete buddista, ah, si è bruciato sto bonzo. Si è cosparso di benzina nella piazza principale e poi è... Che cosa è successo? Niente! Si è dato fuoco da sé perché vuole la libertà. Ad libertà, ad ebrusa per poter campare. Per campa, per Laura, Laura per poter brusa. M'han detto che in Fiandra, dov'è? Nel Belgio, saltata per aria, una miniera, ade carbo. Son finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù. Successo? Niente! Più di 60 teron son finiti all'aldilà, han finito de tribula per pude campa, de campa per Laura, Laura per pude spissia. Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo, c'ho i servizi col bidet. Cosa interessa a me della mia libertà? La libertà ad è presa per poter campa e campa per tribula e tribulare per campare, tribula per poter campa e decampa per poter sfissia e per sfissia per poter campa e libertà per poter brusa. M'han detto ieri sera, cos'è? Il dottor Biraghi, chi è? Il capo reparto, che sono licenziato in tronco e per via della flessione sul mercato principale e poi è... Che cosa è successo? Bianco! Desinteressa anche a me della mia libertà, a libertà ad ebrusa per poter campare. Libertà dell'aura e dopo asfissia, l'aura per poter campare e tribula per poter morire. Non c'ho più la macchina, son disoccupato, la mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa. Non c'ho più neanche il bidet! Sono qui, peggio di un bonzo, non c'ho neanche la benzina per bruciare! Desminteressa anche a me della mia libertà, a libertà dell'aura per poter campare e campare per tribula e tribulare per campare e campare per poter brusa e libertà allora libertà oppressione no confessione libertà no libertà e rivoluzione no sì rivoluzione no. Rivoluzione, sì, sì, sì, rivoluzione, libertà, rivoluzione, libertà dal rivoluzione, libertà per tribula, libertà per la rivoluzione, libertà, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, tappi, tappi, tappi, unde, rivoluzione, unde, rivoluzione, unde, rivoluzione, unde, rivoluzione, unde, era Iannacci, e in questa canzone dimostra come la rivoluzione, ammesso che mai ce ne sia una, può anche avere delle involuzioni autoritarie. In effetti è quello che di solito succede in regimi abbastanza instabili come quelli sudamericani e come quelli le cui economie al Sud America si avvicinino. Questo può essere anche favorito da un tipo di falsa libertà, una falsa libertà quale quella denunciata appunto da Gaber in questo suo spettacolo Libertà obbligatoria. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola Si può. Si può, siamo liberi come l'aria, si può. Si può, siamo noi che facciamo la storia, si può. Si può, io mi vesto come mi pare, si può. Sono libero di creare, si può. Sono padrone del mio destino, si può. Posso mettermi un orecchino, si può. Basta uno spunto qualunque, la nostra fantasia non ha confini. Basta un pennello, un colore, noi siamo pronti a perpetuare la creatività dei popoli latini. Si può contestare, parlare male, si può migliorare il telegiornale, si può fare critiche dall'esterno, si può sputtanare tutto il governo, si può occuparsi di spiritismo, si può far dibattiti sull'orgasmo, si può far politica alternativa, si può, siamo pieni di iniziativa, si può. Siamo sicuri che abbiamo in comune la certezza del nemico. Siamo sicuri che c'è, ma il più rosso e il più nuovo dei partiti non si sa perché diventa rosso antico. Si può, siamo liberi come l'aria, si può. Siamo noi che facciamo la storia, si può. Libertà, libertà, libertà, libertà obbligatoria. Sono liberato, sono davvero più leggero, sono infedele, sono matto, posso far tutto. Viene la paura di una vertigine totale, viene la voglia un po' anormale di inventare una morale. Utopia, utopia, utopia, pia, pia. Si può fare i giovani a 60 anni, si può regalare i due jeans ai nonni, si può stare tutti come un indiano, si può divertirsi con il digiuno, si può. E dopo tante battaglie, volendo anche farti uno spinello, il libanese è il migliore, tra poco dovrebbe cominciare la pubblicità in un nuovo carosello. Si può inventarsi protagonista, si può rinforzarsi dall'analista, si può occuparsi dell'individuo, si può farsi ognuno la propria radio, si può con la nostra cultura dietro, si può rinnovare tutto il teatro, si può dare al mondo un messaggio giusto, si può a livello di Gesù Cristo, si può. Basta una bella canzone, la tua rivoluzione va da sola. Basta che ognuno si esprima e poi non importa se si chiama la rivoluzione della Coca-Cola. Si può, siamo liberi come l'aria, si può, siamo noi che facciamo la storia, si può, libertà, libertà, libertà, libertà obbligatoria. Ma come? Con tutte le libertà che avete, volete anche la libertà di cambiare? Utopia, utopia, tutto pia pia pia. Libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali, libertali. Era Gaber da Libertà Obbligatoria, in cui denunciava appunto una situazione di apparente permissivismo, ma dove in realtà chi tenta di cambiare in profondità qualche cosa non riesce per tante ragioni. Forse Gaber è ormai disincantato e i suoi ultimi spettacoli fanno propendere appunto per questa tesi di estrema delusione, direi. Forse da parte dei giovani c'è più speranza. Per esempio prendiamo qui Gianfranco Manfredi, che sostiene che ci sia. Nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'accendere il mattino, ma nel sogno realizzato, ma nel mitra lucidato, nella gioia e nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta, sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria, sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi una merce, nel prendersi la mano per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gibboni, sta nei suoni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia di un totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Ma chi ha detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi. Sulla punta delle labbra, ma chi ha detto che non c'è? Tu sta nel mitra lucida, ma chi ha detto che non c'è? Nella fine dello stato, ma chi ha detto che non c'è? Della libertà,

venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Andrei nella mia ora di libertà. Devo riconoscere che la trasmissione di oggi non è particolarmente allegra, d'altra parte allegri non sono neanche i tempi che viviamo. Concludiamo comunque con quest'ultima canzone, la rubrica del lunedì di Cabaret, la canzone, e torniamo più strettamente al genere, e stavolta dei Gufi, dallo spettacolo Non spingete scappiamo anche noi, e si chiama Canzone della Libertà. La libertà. Si concludo così la puntata di anni di Cabaret, e contrariamente a quanto annunciato ci sentiremo anche mercoledì per la puntata sui libri. La prevista trasmissione di fumetti, a causa forse del conduttore, non può attuarsi, mi continuerò ancora io, sperando di andare avanti con qualcun altro per tenere questo genere di rubriche.